Prima di tutto il radicamento, cioè questa seconda edizione vuol dire che insomma la prima è stata sperimentale, abbiamo visto che funziona, la cosa funziona, per cui questo festival sta riscuotendo successo e difatti questo secondo anno abbiamo già molte più squadre iscritte, c'è molto più interesse e per cui ci aspettano 3 giorni di gioco e inclusione, insomma è il festival più inclusivo d'Italia. Probabilmente, e quest'anno con interessanti aperture, per cui abbiamo anche altri tipi di tornei, oltre a quelli classici di calcio, di pallavolo, di basket e di rugby. Quest'anno abbiamo anche un torneo di Quidditch, un torneo di Ultimate Frisbee e poi un torneo di cricket, oltre a vari tipi di discipline insomma, che sono presenti, fra cui il wrestling antirazzista, più lo skate, e il capoeira, eccetera, eccetera. Per cui sono 3 giorni abbastanza intensi, dal 7 luglio al 6 del pomeriggio, fino alla domenica del 9 luglio, fino a dopo pranzo. Sarà intervallata la parte, chiamiamola così, di gioco e sportiva, intervallata da momenti di intrattenimenti musicali chiaramente, ma poi anche momenti di carattere culturale con vari tipi di incontri, e ci aspettiamo una grossa partecipazione da parte di Bologna, chiaramente al Festival dei Giochi Antirazzisti viene gente anche da tutto il resto d'Italia e d'Europa. E c'è una novità che riguarda anche gli orari dei tornei, sentivo quest'anno andate un po' anche in notturna? Quest'anno approfittiamo oltre che della luce del sole che arriva fino alle 9 di sera, anche un poi in alcuni campi di un'illuminazione, per cui abbiamo pensato di garantire ai partecipanti anche di giocare nei momenti più freschi insomma della serata, fino alle 10:30-11 si giocherà. Ecco, lo sport popolare è ovviamente anche un pretesto di socialità e di inclusione, ma come dire, ci sono spesso ai giochi antirazzisti anche momenti di riflessione, di approfondimento, no? Su alcuni temi. Sì. L'anno scorso abbiamo avuto la ragazza in blu, e quest'anno su cosa si rifletterà? Sicuramente ci sarà un incontro dibattito, adesso gli ospiti li sveleremo più avanti, per cui li stiamo chiudendo, comunque si chiama Attacco ai diritti, diritti all'attacco, per cui già il tema si può intuire insomma, e poi dopo ci saranno altri momenti di riflessione all'interno del festival organizzati dalle varie ONG che ci stanno dando una mano, da SOS Mediterranei piuttosto che Medici Senza Frontiere, Avvocato di Strada e mille altre realtà che in questo ambito qua vogliono far sentire la loro voce, insomma. La location è sempre quella dell'anno scorso? Sì, Centro Sportivo Bonori, via Romita 2/7, dietro il Parco Nord.